Indovinello da $1 milione. Sapete qual è la parola più importante, il cui suono è più dolce per ognuno di noi? La parola che ci piace più al mondo? Il nostro nome. Il nostro nome è la parola che preferiamo al mondo, che preferiamo sentire il più possibile. Due controprove di tutto questo. Tutti noi siamo molto contenti quando siamo chiamati non con un generico "ciao, come stai?" oppure nel mio caso "ciao Don, come stai?" ma quando ci dicono ad esempio "ciao Giovanni, come stai?" Altra controprova: tutti noi siamo abbastanza seccati quando qualcuno per errore sbaglia il nostro nome e ci chiama con il nome di un altro. Altra dimostrazione di carattere psicomarketing tecnologica. Tutti noi siamo iscritti a tanti servizi online, ma avete notato che ogni tanto però riceviamo un'email del tipo "ciao Giovanni, oggi voglio proprio parlarti di una cosa che cambierà la tua vita"? Voglio dire, se ne sono accorti proprio tutti che sentirsi chiamati per nome anche in una semplice email spedita in modo automatico, però con il proprio nome, può fare la differenza in certi momenti. Quando qualcuno comunica con noi pronunciando il nostro nome, la comunicazione subito, immediatamente, diventa più calda, più confidenziale. Non puoi negarlo, anche a te fa un piacere da matti quando ti senti chiamato per nome. Sì, perché il nome ha come un potere magico. Distingue una persona da un'altra, la rende unica, le dà dignità, le dà unicità. Dall'autista al magazziniere al più alto dirigente, nessuno di noi è insensibile alla magia di udire il proprio nome. Ma allora, se ci vuole proprio così poco per far contenta una persona e migliorare la comunicazione con lei, cosa aspettiamo a pronunciare con un po' più di frequenza il nome delle persone che ci sono accanto? Ma c'è qualcosa di più. Quando tu cerchi di abituarti a chiamare ogni persona con il proprio nome, non soltanto fai un regalo a lei. Questa cosa cambierà dal di dentro anche te. Anche tu ne sarai cambiato se riuscirai a darti questa abitudine mentale. Perché chiamare una persona per nome significa che gli altri sono un dono, che ognuno di loro è importante, che ognuno è una persona unica, irripetibile, speciale, con una sua dignità, una persona da amare così com'è. E allora mi viene in mente quel passo del Vangelo in cui Gesù dice: "Io sono il buon pastore, e il buon pastore conosce le pecore una per una e le chiama per nome". Però mi direte, c'è un però. Non è mica facile ricordarsi il nome di tutti. Verissimo. Chissà quante volte è successo anche a voi di presentarvi con una persona, di sentirne il nome e dopo pochi secondi già ve lo siete dimenticato. Ok, non è affatto facile ricordarsi il nome di tutti, ma credo che un primo passo sia già quello di cambiare mentalità, di renderci conto interiormente quanto sia bello e quanto sia importante per l'altro e per noi cercare il più possibile di ricordarci il nome delle persone con le quali siamo in contatto. Comunque non temere, perché nel prossimo video ti insegnerò una tecnica anche molto divertente che ti aiuterà a ricordarti i nomi delle persone nuove che incontri. E quindi, se non vuoi perdertelo, che cosa devi fare? Indovina un po'. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva anche la campanella per non perdere le notifiche. Ah, e se sei arrivato fin qui, credo che il video forse ti sia piaciuto, altrimenti potevi già stopparlo da tempo. Allora, se ti è piaciuto, lascia un mi piace se vuoi e condividilo con i tuoi amici.